Fermati uomo e ascolta il tuo cuore, impara a sentirlo vibrare d'amore, scoprirai così il dolce piacere di amare ogni creatura. La stessa di significato. Ancora buon Natale.